Ci sono muri che sentono e vedono, ci sono spie nel mio microfono. So bene che sono soltanto un numero tatuato sotto la pelle, con un codice a barre come sbarre d'acciaio. Non credo alle balle, hanno messo gas in nome del progresso nel mio ossigeno. Controllano, parlo al telefono, camuffo il mio lessico più che il braccio di un tossico. La mia testa stretta da un laccio, catene di montaggio, uomini automi danno olio all'ingranaggio. Con le bianche al potere, tra bocchini sotto scrivanie tracciano strategie per nuove lobotomie. Squali, vogliono vegetali, schiavi in fila come militari, perciò mandano i loro emissari a scuola i miei professori, in strada pubblici ufficiali, messaggi subliminali nei televisori, predicatori vendono la fede a rate, comprare ubbidire, ma non sapranno mai le mie coordinate. Non hanno capito che la chance che mi piego subito, che una moneta cade croce 100 volte di seguito, valgo più di 4 cifre, non credi, cronache di regime, cose che non vedi. Cose che non vedi, che non vedi, cospirazioni, cospirazioni, per il 2000, per il 2000, sarà scuola, sarà scuola, sarà scuola. Oggi a questa iniziativa abbiamo invitato 2 compagne di Cagliari che ci racconteranno del prossimo evento che avverrà a Teolada, il corteo del 22 maggio che si inserisce all'interno di un percorso di lotta che vede interessata appunto tutto il territorio sardo e della presenza massiccia di quelle che sono le basi militari della NATO, una presenza che appunto è visibile da oltre 70 anni e che occupa diciamo il 60% del demanio militare italiano in quel territorio. Ci racconteranno un po' appunto di questo percorso di lotta che si aggancia anche a un precedente corteo avvenuto il 19 dicembre e che appunto ci racconteranno un po' quali sono i discorsi che stanno avvenendo in Sardegna, percorsi che comunque hanno anche una loro storia precedente, percorsi di resistenza e di lotta di fronte appunto all'imponente presenza di occupazioni militari nel territorio. E ci racconteranno anche un po' di quelle che sono le pratiche che vengono adottate in questi percorsi. Io non mi dilungherò troppo, ma volevo anche dire che questa iniziativa per noi è risultata interessante sia per dare uno spaccato di quello che avviene in un territorio non troppo distante, delle lotte e discorsi che vengono portati avanti, soprattutto in un periodo come questo, di una guerra in costante sviluppo, una guerra imperialista, per dare quindi appunto uno spaccato di quelli che sono i discorsi che rientrano all'interno di una lotta sicuramente militarista, di occupazione, ma che possono dare uno slancio immaginativo e anche di riflessione e confronto su quelle che possono essere poi le proposte da poter fare in territori come questi dove viviamo. Appunto perché anche in questi luoghi, nello specifico ad esempio qui in Lombardia, vediamo anche qua una presenza di una base NATO, quella di Solbiate Olona. Naturalmente una cosa che risulterà evidente è la diversità e la differenza, no? Dei contesti di cui andiamo a parlare, perché appunto quello della Sardegna diciamo che rientra, no? In un discorso specifico di lotta reale, però crediamo che possa essere interessante come base di discussione su quelle che potrebbero essere poi le narrazioni da poter dare di fronte al contesto del conflitto in corso e quale appunto narrazione che non cada poi in un aspetto prettamente nazionalista o umanitario che ormai dipinge le testate, no, giornalistiche e mediatiche che ogni giorno bombardano le nostre orecchie. Quindi boh, io lascerei un po' la parola a voi, poi naturalmente sarebbe interessante se avvenga un po' un dibattito che possa avere più ampio respiro riguardante quello che accade nell'attualità. Grazie. Ciao a tutti e tutte, come diceva Alessia, appunto arriviamo dalla Sardegna, siamo qua per presentare un pochettino il percorso di lotta che stiamo portando avanti e soprattutto l'iniziativa del 22 maggio. Prima diciamo faremo un passo un po' indietro e l'idea è quella di parlare in maniera un po' tecnica appunto della presenza militare in Sardegna, quindi affrontare un po' il discorso delle basi, cosa sono queste basi militari, cosa succede al loro interno e così via. Parlare un po' della storia delle lotte e poi concentrarci sulla giornata e sulle pratiche che portiamo avanti. Appunto inizierò io parlando un po' di come sono distribuite le basi, concentrandomi principalmente su quattro, che sono appunto a Capofrasca, Teulada, Decimo Mannu e Quirra. E niente, poi insomma affronteremo gli altri discorsi. Partendo appunto da Capofrasca, dico giusto un paio di cose senza insomma entrare troppo nel dettaglio. Comunque, come la maggior parte delle basi militari in Sardegna, nasce negli anni 50, quando appunto diciamo in seguito a le richieste di esercito italiano e NATO, viene deciso appunto di stabilire le basi nell'isola per un discorso proprio di stabilire le basi lì, proprio perché era un punto focale e anche strategico per evitare attacchi dall'esterno e così via. La base di Capofrasca è una base che si trova nel sud Sardegna e conta un'espansione di 1400 ettari, che sarebbero più o meno 14 km quadrati, ed è appunto una base dove svolgono esercitazioni sia NATO che statali, e principalmente sono stanziati Germania, Regno Unito e Stati Uniti d'America. Per quanto riguarda il tipo di esercitazioni che vengono svolte, la particolarità di Capofrasca è che in seguito alle lotte degli anni precedenti, dato che è stato un poligono che appunto è stato insomma invaso più volte dalle lotte, hanno deciso di occultare i calendari, che appunto insomma non sono più aperti al pubblico, e quindi c'è impossibile insomma capire quali tipo di esercitazioni si svolgono. Tuttavia insomma sicuramente siamo certi del fatto che è stata toccata dalle esercitazioni più grandi degli ultimi anni, come ad esempio la Trident, che è stata appunto un'esercitazione che ha coinvolto più di 30 stati che appunto hanno deciso di giocare a fare la guerra insomma in tutte le basi in Sardegna. L'aspetto principale di questo momento è che insieme a Decimo Mannu, che è l'aeroporto militare, è in corso la costruzione di una scuola internazionale di volo, decisa appunto dall'esercito italiano, NATO e dalla Leonardo SPA, che è praticamente un'azienda appunto privata che si occupa del settore della difesa, della costruzione di mezzi e della messa in atto di strategie di guerra. Questa scuola, oltre a ospitare piloti NATO, ospiterà anche Qatar e Giappone, e questo è un dato interessante proprio perché ad esempio il Qatar ha firmato anche con la Leonardo per l'acquisto e per la vendita di mezzi, quindi insomma denota quanto diciamo sia in corso anche un'espansione dal punto di vista economico riguardante insomma le decisioni e le strategie di guerra. Passo brevemente appunto a Decimo Mannu, dico giusto due cose. Al suo interno sono presenti appunto anche qua eserciti NATO, quindi mezzi aerei. Il dato più interessante riguarda il numero di movimenti che ci sono annualmente. Sino al 2016 si contavano 60.000 movimenti, il che vuol dire più di 300 voli giornalieri. Questa diciamo l'attività è un po' diminuita in seguito alla dismissione della presenza della Repubblica, cioè dell'aeronautica della Repubblica Federale Tedesca, che appunto ha abbandonato ha lasciato la base. I voli sono un po' diminuiti, però appunto si presume che con l'arrivo di questa scuola insomma saranno in costante aumento di nuovo. La base di Decimo Mannu, tra l'altro, ovviamente coinvolge soprattutto un discorso di inquinamento acustico che, insomma, se vi dovesse mai capitare di andare lì, insomma, è evidente. La notte, insomma, gli abitanti vengono svegliati dal costante volo di aerei e così via. Per quanto riguarda Quirra, invece, siamo sempre siamo più, più su di Cagliari, siamo quindi nella, nella diciamo, tra Perdaste e Foggia. Aspetta, faccio vedere. Qui, questo qua. Sì, nel, vicino a... tra Perdasvogu e Capo San Lorenzo, è sicuramente il poligono più grande tra i, di, della Sardegna, Italia e anche Europa, conta ben 13.700 ettari. Il discorso più interessante di Suquirra è il fatto che oltre ospitare addestramenti e sperimentazioni ha anche un ruolo, un, diciamo una funzione più nascosta che è quella di interramento e brillamento delle, di quelli che sono i, i residui di mezzi, di munizioni e così via che vengono utilizzati insomma durante le esercitazioni. L'interramento sarebbe proprio il sotterramento di questi residui e il brillamento è una, diciamo un processo industriale che va a detonare la loro potenza. Il discorso di Quirra è che appunto a causa di questo di queste pratiche, ma anche di ad esempio di alcuni elementi come tecnologie elettromagnetiche, cioè di elettromagnetismo, eccetera, si è sviluppato un fortissimo inquinamento che ha portato anche ad esempio all'inizio di un processo chiamato proprio veleni di Quirra, perché insomma durante gli anni, già dal 2000 in poi, sono state fatte varie dichiarazioni da oncologi, da abitanti del posto e così via, proprio sulle conseguenze disastrose che si stavano subendo. Ad esempio all'inizio degli anni 90 il 23% delle nascite di un paese vicino chiamato Scalaplano subì malformazioni proprio alla nascita. Diciamo questo processo purtroppo, non che insomma ci riguardi tanto l'aspetto processuale di tra Stato che si fa la guerra da solo, non è comunque andato a buon fine, nel senso che appunto sono stati assolti coloro che erano sotto processo. Passo invece adesso a Teolada, che appunto è la base che ci ospiterà, per così dire, a maggio. Anche qua siamo negli anni 50, è una base dove vengono svolte esercitazioni terra, mare, aria, il che vuol dire che appunto sia aeronautica che esercito che marina sono coinvolte. È di più di 7.400 ettari disposti tra Teolada e Sant'Anaresi, che in realtà appunto è il paese in cui andremo a maggio. Qui vengono svolte esercitazioni di vario tipo proprio perché diciamo, la conformazione morfologica della base è adatta ad ospitare vari tipi di esercitazione in quanto vede zone più collinari, di pianura e così via. La base è divisa in quattro aree che diciamo, in pieno stile americano sono state chiamate Alfa, Bravo, Charlie e Delta. La cosa più importante riguarda appunto la zona, diciamo, la zona Delta e la zona Bravo. La prima che ho nominato appunto è una zona che ha subito è stata bersaglio di tutte quelle che sono state le esercitazioni più pesanti. È una zona che è infatti interdetta sia al passaggio di mezzi che di persone, sia civili che militari, perché appunto è stata sempre utilizzata come un luogo d'arrivo di spari, di bombe e così via. E quindi diciamo non è mai stata bonificata e perciò il passaggio è interdetto. Tra l'altro un aspetto molto interessante, o comunque che insomma che ci fa capire proprio il livello di inquinamento che poi si è andato a sviluppare, è che negli anni 90 sono stati anche utilizzati delle armi chimiche verso questa zona, che erano delle armi al fosforo bianco che diciamo a contatto con l'ossigeno crea dei fortissimi danni all'organismo, letteralmente ti va a bruciare insomma i tessuti organici. Tra l'altro sono le stesse armi che durante poi il 2008 sono state usate verso il popolo palestinese durante l'operazione Piombo Fuso portata avanti dai militari israeliani. Invece per quanto riguarda le altre zone, appunto soprattutto la zona Alfa invece è la zona più colpita poi dal punto di vista dell'inquinamento e non solo, è la zona dove diciamo c'è il più grande passaggio di mezzi, cingolati e così via, ed è quella dove adesso si vedono proprio dei danni a livello sul territorio. Ad esempio ci sono dei crateri di più di 20 metri dove che appunto insomma sono che è stata la terra diciamo è stata completamente distrutta. distrutta. Anche qua è al momento in corso un processo che è iniziato in realtà da pochissimo. Il 6 maggio c'è stata la prima udienza, l'udienza preliminare, è un processo che porta è stato fatto contro vari 8 tra militari e insomma altre persone coinvolte nel lavoro all'interno della base per disastro ambientale. Vedremo come andrà avanti questo processo, anche se appunto ci teniamo a ribadire che non è quello che ci interessa, il fatto che si fanno la guerra da soli, però è indicativo di quanto effettivamente poi le conseguenze di quello che viene svolto all'interno della base siano effettivamente consistenti. Tra l'altro a Teolada appunto questo mese non dovevano esserci esercitazioni, doveva esserci un rally, vengono utilizzate le dune della base per fare delle gare di macchine, non so cosa sia esattamente un rally, comunque hanno deciso all'ultimo di rinviarlo proprio per poter svolgere un'altra esercitazione chiamata a titolo d'emergenza, che si chiama Mare Aperto, che è un'esercitazione che coinvolge tutti appunto i paesi NATO proprio per la difesa dei confini europei nel Mediterraneo, e quindi questo sicuramente ci mette un pochettino in allerta sulla necessità impellente di continuare a riprendere le esercitazioni che appunto non dovevano essere in questo momento. Questo era appunto per fare un po' un quadro tecnico sulle basi. Adesso Corinna vi racconterà un po' invece della storia delle lotte. Ciao, allora io vorrei un po' parlarvi a partire dagli anni 90, quando appunto iniziò veramente la lotta antimilitarista in Sardegna, per quanto già dal 68 abbiamo l'evento di Prato Bello, conosciuto dai più. Nel 92 abbiamo un'operazione militare chiamata Forza Paris, che porta all'invio di 12.000 tra alpini e militari di leva dopo il rapimento di Farouk Hassam. E questo portò a una reazione molto dura da parte della popolazione, in quanto questi 12.000 militari si aggiungevano già a una pesante presenza delle forze dell'ordine, in particolare nei paesi del centro Sardegna, che si distinguono sempre per una reazione antistatale abbastanza diffusa tra la popolazione. Possiamo dire che ci furono alcuni fatti interessanti che furono determinati non solamente dai compagni, ma anche appunto dalla popolazione stessa, come alcuni ordigni, sia esplosi che inesplosi, che furono lasciati contro alcune caserme e contro sedi di sindaci e vice sindaci, le case e anche i comuni stessi, in particolare nei paesi del centro Sardegna, come per esempio Lula. E poi abbiamo anche degli attacchi stessi ai militari, nonché poi un tentativo anche di dialogo, in senso di spiegazione di che cosa comportava questa vera e propria invasione dell'esercito italiano in Sardegna, con un tentativo di spiegazione con la lettera al militare ignavo, ossia alla maggior parte di questi militari che erano appunto militari di leva, quindi ragazzini che erano stati inviati. Quindi nel 92 ci furono messi i primi semi di quello che sarà poi una lotta che principalmente si sviluppa al 2014, questo perché negli anni seguenti si parlò comunque sempre di antimilitarismo, non è un discorso che scomparve, ma solo nel 2014, grazie a una grande manifestazione a Capofrasca, la prima che fu fatta, si inizia a parlare veramente di movimento antimilitarista e contro l'occupazione militare della Sardegna. Questo perché nel 2014 a Capofrasca bruciano alcuni ettari di territorio della base dopo un'esercitazione, distruggendo comunque la macchia mediterranea, un territorio particolarmente importante. Questo porterà la popolazione anche mossa da figure istituzionali e da alcuni personaggi della politica locale, nonché da alcuni giornali come l'Unione Sarda, che appunto si mise in prima linea, a chiamare un corteo e una protesta contro questo avvenimento. Ovviamente quello che fu più interessante interessante non fu tanto l'impegno che emerse da alcune figure istituzionali che stavano appunto ricercando solo dei voti facili e come al solito si inserivano nelle situazioni che più creano rabbia nella popolazione, ma che per la prima volta ci fu un'invasione di massa all'interno di una base con il taglio delle reti, che poi è appunto la prima volta che avremo questa pratica che poi sarà ripresa e ricercata in moltissime manifestazioni come simbolo ma anche come tentativo di disturbo. Il taglio delle reti in particolare fu in quel caso fatto appunto come protesta contro l'incendio che avvenne, ma ben presto divenne una pratica che tentava attraverso l'ingresso della base durante l'esercitazione di interrompere l'esercitazione stessa, per cui ovviamente ha un che di simbolico, ma cioè permette anche di interrompere o per qualche ora o per un giorno intero un'esercitazione, quindi provare a mettere i bastoni tra le ruote del comparto bellico. In particolare poi abbiamo una riflessione portata avanti dalla rete No Basi, che nasce nel 2015 a Cagliari, ma avrà vari collegamenti appunto in tutta la Sardegna, e che chiamare il corteo contro la Starex, che è un'esercitazione aerea fatta a Decimo Mannu, che sarà un successo perché la Starex appunto fu annullata, grazie appunto al timore che aveva creato questo corteo tra i militari e tra i capi che gestivano questa esercitazione. Lo stesso anno ci saranno le prime tre richieste di sorveglianza speciale che saranno rigettate verso appunto tre compagni cagliaritani e si continuerà a portare avanti sia campeggi sia alcuni corti antimilitaristi, tra cui c'è da segnalare nel 2015 quello del 3 novembre a Teulada, che sarà sicuramente una delle più importanti esperienze di quegli anni, in quanto si riuscì a fermare la Trident Juncture, che era la più grande esercitazione bellica NATO dal dopoguerra. Nel 2016 avremo un corteo a Capofrasca particolarmente acceso, ed effettivamente in quegli anni possiamo vedere che ci furono vari cortei che portarono uno scontro diretto sia con i militari sia con le forze dell'ordine, con il ricorrente tentativo di entrare nelle basi, sia quando c'era un'esercitazione appunto come detto prima per cercare di interromperle, sia come avvenne appunto il 3 novembre, sia come gesto simbolico. Quindi ci furono anche varie contestazioni. Dal 2016 si cerca di ragionare su una lotta che non sia più solo contro la presenza delle basi in Sardegna, ma in generale su tutto quello che concorre all'occupazione militare e alla guerra, ossia in particolare anche le ditte di logistica, come per esempio quella dei fratelli Rubino, ma anche altre aziende, altre ditte che si occupano della ricerca militare e della dual use, come Vitrocised e il distretto aerospaziale sardo, che assieme all'università, l'Università di Cagliari in particolare, fanno una ricerca che promette di inviare l'uomo su Marte, ma in realtà collabora con Israele per la creazione di droni e altre tipologie di armi. Quindi si inizia a fare un ragionamento di lotta più capillare, che non si limiti solo alle giornate alle basi, con vari blocchi, sia a Sant'Antioco quando arrivavano i mezzi militari che poi venivano portati a Teulada, perché il porto di Sant'Antioco è lì vicino, sia contro appunto queste ditte già citate, contro l'università, in particolare contro un barone di ingegneria che è presidente dell'Istituto Aerospaziale Sardo, e questo porterà delle condanne. Per aver interrotto una conferenza della Saras, che è l'azienda di Moratti in Sardegna, petrolifera, della Saras e della Marina Militare, che parlavano di ambiente oltretutto. In seguito avremo anche un'attenzione verso l'RVM, la fabbrica di bombe, in particolare questo al 2015, quando inizia la guerra in Yemen, si scopre che l'RVM produce bombe che vengono sganciate sul popolo yemenita. Quindi si cerca di ampliare appunto la lotta, in particolare sull'RVM non si riuscirà ad avere un'incidenza tale come nelle basi, però si cercheranno di fare blocchi per impedire l'entrata o l'uscita di camion, per disturbare l'attività stessa. E poi nel 2017 avremo il corteo al PISC, che è quello che è stato nominato da Giulia il poligono di Quirra, appunto uno dei più grandi, che sarà che determinerà una battuta d'arresto nel movimento appunto sardo, in quanto la controparte, gli sbirri vari, riuscirono a fermare il corteo, cioè a non far partire il corteo, e di fatto questo terminò una giornata molto difficile, che poi porterà comunque gli strascichi fino poi al 2019. È vero che durante tra il 2018 e il 2019 ci fu un periodo di crisi, ma ci furono due azioni molto interessanti che ci tengo a segnalare, ossia andare a fuoco sia una gru dei fratelli Rubino sia un camion della Vitrocised, e poi fu fatta da due giorni in controllo RVM. Nel 2019 arriva la chiusura delle indagini dell'operazione Lince, con 45 indagati non provenienti da una sola area dell'antagonismo alle basi militari, ma provenienti appunto da aree molto differenti, spesso e volentieri anche non colpiva persone particolarmente importanti, diciamo, come a volte capita nelle lotte. Diciamo che il PM decise proprio di lanciare pescare dal mucchio. Comunque c'è da segnalare che è stata richiesta, ancora non si è concluso, il 270 bis per 5 compagni, tra cui anche poi in più l'applicazione alla sorveglianza speciale, che però invece quella è stata rigettata dopo 2 anni di attesa. Quindi la chiusura delle indagini Lince porta a una comprensione di come per la prima volta appunto il movimento antimilitarista sardo viene messo sotto processo in toto. Ora abbiamo 39 imputati, l'udienza si svolgerà il 23 giugno. E poi avremo un corteo di risposta a Capofrasca molto partecipato, che determina comunque una volontà di ripresa delle lotte. In particolare c'è una volontà dei manifestanti di tentare ad avvicinarsi alla base, nonostante poi non ci si riuscì, comunque fu una giornata molto importante e partecipata. Poi avremo a dicembre un corteo a Cagliari di solidarietà agli indagati. E diciamo che poi appunto gli anni del lockdown, l'anno e mezzo, ha determinato un periodo di silenzio e di difficoltà di ragionamento a riguardo. Però appunto nel 2021, quest'ultima parte del 2021, è stato caratterizzato da due corti molto importanti, che secondo noi determinano proprio una ripresa delle lotte, e hanno tirato su un bel po' di volontà di continuare. Quello a Tulada a novembre, che ha permesso a alcuni manifestanti di entrare dentro la base dalla spiaggia, e quello invece a Capofrasca, che è stato chiamato dall'Assemblea Indagati e Solidali, che appunto voleva essere una risposta di solidarietà, ma anche di ripresa delle azioni, di rivendicazione delle azioni di cui sono imputati i 45, dato che iniziava il processo a dicembre. Quindi fu fatto il corteo il 19 dicembre con una grande partecipazione e con la vittoria di riuscire nuovamente, dopo appunto il 2014, a rientrare in massa nella base. Da quel momento l'Assemblea Indagati e Solidali decide di appunto cercare di chiamare un'altra giornata, che sarà quella del 22 maggio, e che cambia appunto nome, decide di chiamarsi Assemblea contro l'occupazione militare, con il tentativo di andare oltre appunto la solidarietà all'operazione Lince e rilanciare la lotta antimilitarista. La giornata del 22 appunto viene decisa è deciso che sarà fatta a Teulada, in quanto rispetto a Capofrasca è particolarmente strategica, e in realtà acquisisce ancora più importanza, dato appunto le esercitazioni di cui ha parlato Giulia e il ruolo che ha nella guerra che c'è ora in Ucraina. Quindi quello che vorremmo come Assemblea contro l'occupazione militare è riproporre una giornata come quella del 19, soprattutto riproporre le pratiche che l'hanno contraddistinta, in particolare il taglio delle reti, che è dichiarato, e il tentativo di avvicinarci alla base e riuscire a entrarci, con un, anche la volontà che questo sia un'azione non elitaria o solo di una parte dei militanti più stretti, ma che possa essere un'azione collettiva come è stato il 19. Quello che effettivamente contraddistingue quelle giornate è che le azioni, l'entrata alle basi e il taglio alle reti è molto diffuso e molto riconosciuto alla popolazione che partecipa ai cortei. E quindi vediamo appunto persone di varie età che entrano e che si rapportano anche a questo gesto per quanto illegale. E quindi la nostra volontà è quella di arrivare alle reti e cercare di ripetere una giornata il più condivisa possibile. Volevo aggiungere un paio di cose appunto sulla ripresa delle lotte. Per quanto riguarda la giornata del 19 dicembre, quello che ci ha spinto di più, insomma, effettivamente a organizzare il corteo e così via, è stato che la richiesta appunto di riunirci, di parlare, di confrontarci di nuovo è arrivata proprio dai cinque compagni su cui pendeva la richiesta di sorveglianza speciale. E questo, insomma, ci ha dato proprio una volontà in più di effettivamente di riprendere la lotta ufficialmente. Abbiamo visto in loro, diciamo, proprio una necessità di rispondere alle accuse di nuovo con l'azione e con le stesse pratiche che hanno portato poi alle accuse che pendono su di loro. Per quanto riguarda invece le pratiche, volevamo parlare un pochettino di questo che è il taglio delle reti, perché sicuramente è appunto la pratica di azione che sta contraddistinguendo questa lotta, e discutere un pochettino le implicazioni e così via. Il taglio delle reti, come diceva Corinna, è significativo perché permette l'invasione del poligono. L'aspetto particolare è che è condiviso da più tensioni di coloro che partecipano alle giornate, in generale alla lotta. Infatti, diciamo che sviscerando un pochettino questo tipo di gesto, possiamo vedere due filoni principali che sono appunto il fatto che è portato avanti da un lato da coloro che vedono nell'ingresso della base una riappropriazione della terra, e quindi qua effettivamente entriamo un po' nel discorso indipendentista che è presente in Sardegna, e quindi proprio una volontà di rientrare nella base e di ricalpestare quei territori che ci sono stati sottratti. La particolarità è che appunto chi è spinto da questa motivazione decide di svolgere questa pratica tante volte, ad esempio a volto scoperto, che comunque appunto è significativo proprio di una rinegazione dell'illegalità, ma proprio di riappropriazione della terra. A fianco a ciò, effettivamente poi c'è invece la volontà di tanti altri di invece andare contro l'occupazione militare, contro quella che sono le forze belliche, contro lo Stato, e quindi comunque appunto evidenziare il gesto di attacco e di sabotaggio verso la presenza militare e quant'altro. Un altro aspetto comunque particolare proprio di questo gesto è che appunto l'ingresso nella base comunque porta ad avere sulle spalle un reato specifico, e non è scontato che tante personalità, tanti individui che comunque magari non fanno della militanza la loro quotidianità, decidano appunto di portare avanti questa pratica, consapevoli delle conseguenze e comunque appunto compiendo un'azione legale senza pensarci due volte, e questo è sicuramente un dato significativo di come questo gesto sia diventato comunque veramente tanto condiviso tra di noi. L'aspetto però che comunque di cui ci stiamo un pochettino interrogando al momento come assemblea, come compagni e non solo, è quella di riuscire a trovare degli altri modi di portare avanti la nostra lotta. La lotta antimilitarista non è solamente una lotta contro le basi, seppure appunto queste abbiano sicuramente delle implicazioni particolari a causa dell'inquinamento che provocano e così via, però quello che stiamo proprio cercando di fare è comprendere le implicazioni della presenza militare a 360 gradi, quindi non concentrarci sulle basi, ma trovare delle altre pratiche, degli altri obiettivi che siano comunque efficaci e comunque validi. Banalmente, appunto, lei ha nominato prima la ditta dei fratelli Rubino, che è una ditta di trasporti, e questo è sicuramente un'altra realtà che non è direttamente collegata insomma al comparto militare, però che collabora con loro quotidianamente, e quindi insomma il tentativo è comunque il dialogo di questo momento è quello di trovare degli altri modi di riuscire ad attaccare la macchina della guerra in tutte le sue in tutte le sue sfaccettature. Questo è un po' quello insomma in cui ci stiamo concentrando in questo momento, e sì, vi invitiamo comunque tutti a partecipare appunto il 22 maggio, e sperando che sia una giornata fruttuosa come quella del 19. Un'ultima cosa che volevo dire è, per chi fosse interessato a partecipare il 22, stiamo organizzando dei pullman da Cagliari, perché la base di Tolada è circa un'ora e mezza appunto da Cagliari, e vorremmo andare tutti assieme per evitare anche i blocchi che spesso e i controlli che spesso accompagnano queste giornate, e quindi se per caso foste interessati, appunto stiamo raccogliendo i nomi e anche i soldi per i pullman. Ciao, io volevo farvi due domande così per cercare un pochettino di attualizzare insomma un po' di più questa presentazione. Vi volevo chiedere se sapete se con l'aggravarsi della crisi in Ucraina, oltre alla questione delle esercitazioni, c'è un movimento grosso di mezzi militari NATO all'interno della Sardegna, nel caso in quale basi si stanno collocando. Perché è ovvio che adesso il settore geostrategico di interesse maggiore non è tanto quella parte del Mediterraneo, ma è quello più vicino al Mar Nero, però insomma immagino che comunque la Sardegna, per la sua importanza strategica in quanto è al centro del Mediterraneo, riveste in ogni caso appunto un'importanza fondamentale. Per cui la prima domanda era capire se voi, monitorando un po' la situazione, avete avuto sentore di movimenti grossi e di concentrazioni grosse di mezzi in questi ultimi insomma due mesi. L'altra domanda collegata a questa era se con l'inizio dell'invasione russa, con la conseguente insomma crisi che sta continuando giorno dopo giorno, il movimento contro le basi, insomma contro la guerra, in qualche modo ha avuto un'accelerazione, se si è amplificato, se ha coinvolto altri settori insomma di compagno o di popolazione che prima non erano interessati, e nel caso come questo tipo di discorso, per cui quello prettamente sul rischio di un conflitto nucleare o comunque di una guerra guerreggiata dispiegata anche in Europa, si intreccia con le questioni che già delineavate prima, per esempio quella coloniale insomma dell'esercito italiano all'interno dell'isola. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, abbiamo notato effettivamente diciamo un aumento dei movimenti, sia di mezzi che appunto della presenza di militari nel territorio sardo. La base che diciamo più interessata è effettivamente quella di Teulada. Sono stati segnalati infatti degli spostamenti nella 131, che è la strada diciamo che attraversa tutta la Sardegna, effettivamente in direzione di quella base, e tra l'altro proprio a causa delle esercitazioni che adesso in corso sono stati effettuati degli sbarchi molto intensi nel porto di Sant'Antioco, che è un porto che appunto dista veramente poco rispetto alla base, e che appunto ha visto l'arrivo di tantissimi mezzi che sono stati poi trasportati soprattutto verso quella base. Quindi sì, sicuramente un aumento c'è, ed è evidente che appunto è iniziato in seguito al conflitto che è nato in questo momento, e sicuramente questo ci ha dato una marcia in più anche per decidere di ampliare ancora di più le lotte. Una cosa che vorrei segnalare a riguardo è che comunque proprio a causa del conflitto sono stati decisi altri tipi di giornate, come ad esempio dei presidi che sono stati svolti all'aeroporto militare di Decimo Mannu, che diciamo erano in risposta anche a una chiamata che è arrivata dalla Grecia, proprio di svolgere delle giornate, comunque delle iniziative in concomitanza con un corteo contro le basi che era stato chiamato. Il tentativo che abbiamo fatto è stato appunto di organizzare dei presidi che sono stati tre in tre settimane diverse, e che ci hanno dato, diciamo, una visione dell'urgenza anche dell'apparato militare o comunque di controllo di polizia e così via, di proteggere sempre di più le basi o comunque la presenza militare, e tra l'altro di evitare una messa in discussione della loro forza e così via, proprio perché questi presidi, in seguito a delle azioni semplicissime come il tentativo di bloccare un mezzo che portava il gas all'interno dell'aeroporto, è una semplicissima battitura sulle reti, sono stati caricati, non che questo sia, insomma, un problema, cioè, va bene, però sicuramente è significativo del fatto che hanno una necessità sempre più maggiore di non mettere proprio in discussione l'importanza e l'imponenza dell'apparato bellico, banalmente perché questo tipo di azioni così semplici non erano mai state, insomma, non avevano mai ricevuto una risposta con la forza, e quindi questo sicuramente ci fa capire la necessità sempre maggiore di appunto di rafforzare questa loro posizione. Non so se tu vuoi. Sì, allora, per rispondere alla seconda domanda, abbiamo notato che da vari gruppi con cui prima non ci eravamo ancora interfacciati come assemblea, anche perché è un'assemblea appunto molto giovane, in particolare gruppi nell'area dell'indipendentismo, c'è un interesse a partecipare al 22 maggio e a provare a fare dei ragionamenti sul ruolo della Sardegna all'interno di questa guerra. È anche vero che appunto i presidi di cui parlava Giulia Decimo Mannu invece non sono stati particolarmente partecipati, questo potrebbe essere per varie motivazioni, probabilmente perché l'assemblea è molto giovane rispetto ad altri gruppi come per esempio a Foras, appunto è meno conosciuta, però comunque ci sembra che da parte di una parte di popolazione che generalmente è più attenta e sensibile a certi discorsi, ci sia un interesse maggiore anche di approccio verso questa nuova assemblea, per quanto appunto è vero che saremo a vedere quanto invece la popolazione, che generalmente non è quella parte che generalmente non si organizza politicamente, quindi non è nemmeno affine in altri discorsi, appunto parteciperà. Però sicuramente in alcune discussioni è emerso da varie realtà, anche da altre parti della Sardegna, tra cui nord e il centro, la volontà di esserci il 22 e di continuare anche a fare dei ragionamenti, in particolare sul ruolo coloniale delle basi in Sardegna. Aggiungo giusto una cosa, nonostante appunto la lotta sia contraddistinta da varie tensioni come quella indipendentista, una lotta delle tensioni che magari sono antimilitariste, non riguardanti solo la Sardegna, però in generale un antimilitarismo più internazionale e così via, secondo me il conflitto attuale ha comunque unito tutte queste tensioni, e la consapevolezza della presenza di basi NATO diciamo che da un lato ci fa sentire in qualche modo responsabili, proprio perché sono a casa nostra, sicuramente questa tensione condivisa va al di là di discorsi appunto indipendentismo o antimilitarismo e così via, diciamo che ci sta unendo nella necessità di agire in qualche maniera, e secondo me questa tra l'altro è un punto di forza che stiamo avendo in questo momento, che è quello che ci fa discutere in maniera molto più unita, insomma evitare di prendere due strade differenti, ecco. Siamo consapevoli infatti che la presenza di basi NATO non solo ci renda in qualche modo complici di questo conflitto, ma siamo anche consapevoli che implica comunque una centralità anche della Sardegna in un possibile sviluppo della guerra, e questo diciamo che ancora è una motivazione in più per riuscire a lottare tutti quanti insieme. Beh, innanzitutto ringrazio le compagne perché ci hanno reso partecipi di questa importante esperienza qui di lotta antimilitarista in Sardegna. Conoscevamo già. Io parlo con questo breve intervento perché faccio parte di un centro di documentazione antiimperialista e cerchiamo di essere attivi in questo momento particolarmente grave. E io penso che questa esperienza in Sardegna sia molto importante, soprattutto in questo momento, perché collega quello che è uno spirito militante, giustamente antimilitarista e antiimperialista, antiimperialista con una partecipazione di massa che abbiamo visto diverse volte in quella situazione e che dà veramente respiro alla lotta, insomma. Questa esperienza qui è importante soprattutto anche perché la situazione diventa sempre più grave, insomma. Qui siamo di fronte a una situazione in cui la crisi del sistema sta trascinando popoli e forse anche tutto il mondo in prospettiva dentro questo macello di una nuova guerra imperialista che non si sa dove si fermerà. E in Italia per fortuna abbiamo queste esperienze qui, come abbiamo anche quella del movimento Nomus in Sicilia, come abbiamo avuto episodi anche di sezioni di lavoratori che si sono scese in campo su questa questione rifiutandosi di caricare armi sulle navi a Genova o di caricarle sugli aerei a Pisa e in altre situazioni. L'importante è che queste lotte si sviluppino e che riescano anche a collegarsi tra di loro e riescano anche a aprire un fronte di massa, perché dentro alla guerra imperialista c'è anche la questione del fronte interno, cioè noi oggettivamente oggi siamo il fronte interno di una guerra imperialista, noi anche qui che adesso stiamo discutendo, stiamo riflettendo, dobbiamo concepirci così, come compagni, come situazioni, come aggregazioni che si devono muovere dentro un fronte interno alla lotta contro la guerra imperialista, insomma. Questa questione del fronte interno è importante perché anche gli imperialisti sanno bene che per portare fino in fondo i loro progetti criminali devono comunque tenere buona la gente, devono comunque far passare la logica della guerra, devono comunque avere un certo consenso e anche o simulato o anche reale, insomma. Ad esempio a Milano sabato prossimo ci sarà una parata pro-NATO pro-Ucraina e pro-NATO promossa dalle forze politiche che in questo momento vogliono andare fino in fondo in questa criminale avventura, insomma. Per cui ringrazio le compagne, spero che il vostro movimento vada avanti, che si radichi sempre di più, che abbia uno sviluppo di massa, perché questa è la cosa più importante, insomma. Poi ci sarà il campeggio in Sicilia, a Niscemi, contro la base MOS in Sicilia, che tra l'altro è anche questa impegnatissima in questo momento di guerra, da lì dirigono i droni collegati con Sigonella, insomma. Noi siamo co-belligeranti, cioè lo Stato italiano in questo momento è co-belligerante attraverso la NATO, ma anche in diretta persona, con questa situazione di guerra. E come tale dobbiamo sviluppare la lotta contro la co-belligeranza del nostro Stato. Questo è il concetto. Tra l'altro domani qui a Milano ci sarà, presso il Centro Sociale Torchiera, un momento di dibattito con un collegamento diretto con un compagno del Donbass e con altre compagne ucraine che vivono in Italia, che si collegheranno e che ci daranno anche un punto di vista alternativo rispetto alla situazione che c'è lì, insomma, molto alternativo rispetto a quella che è la infame propaganda che stanno gestendo a tambur battente, insomma, che sembra che la lotta per la libertà debba coincidere con il finanziamento di battaglioni nazisti, con l'occultamento di una contraddizione storica che c'è nel Donbass, che ha rifiutato il golpe di Maidan, eccetera. Mi fermo qui, ripeto, ringrazio le compagne, questa loro esperienza di lotta contro le basi per noi è un faro che deve rimanere acceso, deve illuminare sempre di più questo scenario tragico in cui ci troviamo a vivere in questi anni, e soprattutto deve rafforzarci nella determinazione di combattere questa battaglia nel fronte interno in Italia, insomma. Per cui grazie e buon lavoro. Sì, volevo aggiungere una cosa riguardo insomma all'intervento che è stato appena fatto, ovvero che diciamo che sono consapevole che la lotta antimilitarista in Sardegna sia, diciamo, sia presente, sia in corso, un po' perché appunto è presente da tanti anni, un po' perché ha varie, come dicevo prima, varie motivazioni, varie tensioni che spingono appunto le persone a lottare, banalmente appunto quella indipendentista, l'antimilitarista diciamo pura, la questione ambientalista e così via. In realtà secondo me però questo diciamo è proprio il momento in cui abbiamo un terreno un po' fertile per far sì che questa lotta si espanda e che non sia diciamo così tanto presente solamente in Sardegna, ma diventi una caratteristica insomma di territori che vanno oltre diciamo la nostra isola. E questo secondo cioè è un po' un auspicio che magari ho io, un po' secondo me è proprio un obiettivo che dovrebbe essere molto importante per tutti noi, insomma. Niente, volevo ringraziare anch'io per questi interventi e per aver portato diciamo la testimonianza di questa lotta. E niente, personalmente mi dispiace di non riuscire ad esserci il 22. Però volevo cogliere l'occasione anche per parlare del fatto che, a proposito di quello che veniva detto prima, appunto anche del MUOS in Sicilia, a Scienze Politiche a Milano, il 12 ci sarà una presentazione dell'opuscolo No MUOS, presentato da Scienze Politiche e anche in collaborazione con una compagna da Catania. E niente, appunto, cioè è importante, specie in questo periodo di aggravamento della crisi e delle tensioni imperialistiche, appunto portare avanti questo tipo di lotte, in particolare contro il nostro imperialismo e contro le basi che appunto abbiamo qua in Italia. Quindi niente, vi ringrazio nuovamente per questa cosa e a posto. Grazie. Scusate, sembra che possa non c'entrare molto, però penso che d'ora in poi non potremo perdere nessuna occasione per dire cosa è successo 2 giorni fa. Hanno messo Alfredo Cospito in 41 bis, è una cosa pesantissima, peraltro ha un collegamento perché nel tempo in cui Adinolfi è stato ferito faceva parte di Ansaldo Energia Nucleare che era dentro Leonardo Finmeccanica, quindi c'è anche, ovviamente, anche se non è necessario, ma c'è anche un collegamento. Però pensavo che cioè, è una cosa gravissima, gravissima per tutti, per lui e per tutti. Essere messi in un regime di 41 bis è una cosa, è veramente una tortura. In più ampliare un campo di, stavo dicendo repressione, ma direi persecuzione, che purtroppo credo che interessi tutti. Per cui penso, fra l'altro c'è anche Quan che sta per avere una sentenza per un reato che presumibilmente è lo stesso che ha portato Alfredo in 41 bis. Quindi bisogna che stiamo veramente attenti, che ne parliamo e che non perdiamo nessuna occasione per affrontare un argomento così inquietante come questo. Cioè non era mai successo. Dopo la Lioce, Metasalme, Morandi, che sono in 41 bis da 17, 18, cioè un sacco di tempo, sì, 17 anni, che non so neanche come facciano a resistere, questa è la prima volta che viene portato in 41 bis un altro compagno. Quindi, boh, scusate, però pensavo che fosse una cosa. Poi mi è venuto anche in mente prima quando si parlava della Leonardo, che insomma al tempo dell'attentato Ansaldo Nucleare era parte di Finmeccanica, insomma. Grazie. Sì, grazie mille per questo intervento che appunto c'è cioè molto importante e vorrei approfittarne per ribadire la nostra solidarietà e vicinanza ad Alfredo, a Juan e a tutte le prigioniere e prigionieri. E comunque secondo me è molto interessante questo piccolo appunto collegamento che è stato fatto rispetto al legame che c'era tra Ansaldo e la Leonardo, però in riferimento anche a come la lotta antimilitarista per noi possa essere anche una lotta molto più allargata, appunto non riferita solamente all'esistenza delle basi militari, ma anche appunto della repressione statale e anche dell'esistenza delle carceri stesse, e quindi che possa essere una messa in discussione molto più ampia, almeno una base di partenza ovviamente ognuno con le specificità del proprio territorio. No, a proposito di Leonardo, vabbè, un aggiornamento su una situazione che stiamo vivendo da noi in provincia e poi anche un invito a un'iniziativa. Vabbè, appunto, io vengo dalla provincia di Varese ed è una zona totalmente disseminata di fabbriche di morte. Leonardo è una di queste, c'è l'Airmacchi a Venegono che produce elicotteri e caccia, elicotteri da guerra e caccia. C'è la Gusta Westland a Samarate, che anche lì produce sempre mezzi militari. Ci sono poi sul territorio, sempre anche verso l'area anche del Milanese, ci sono altre aziende che producono, da chi i sistemi di puntamento, a chi i proiettili, a chi il pezzo che serve per tale arma. E quindi è un territorio invaso e poi c'è anche la base NATO di Solbiate. Appunto un territorio invaso. E fortunatamente con l'inizio dell'ampliamento del conflitto appunto alle porte d'Europa è un po' risorto quello che era il movimento contro la guerra nel Varesotto. Appena iniziata la guerra appunto sono stati fatti da parte di organizzazioni come il PD, CGIL, AMPI, delle iniziative contro la guerra che non avevano niente a che fare con un discorso antimilitarista o vero e proprio contro la guerra, ma anzi era chiaro l'intento di stare da una parte di questo conflitto. E quindi un po' di questi gruppi, diciamo, da allearci alle associazioni che aiutano i migranti, alle comunità di migranti del Varesotto, a Pax Christi, agli anarchici, si sono ritrovati per, diciamo, anche colmare quel vuoto che c'è in provincia di Varese e prendere una posizione differente contro la guerra, senza patteggiare da nessuna parte, e contro l'invio di armi, contro gli armamenti. Per dire, ci sono stati anche degli episodi interessanti. C'è stata questa marcia per la pace a Saronno, patrocinata dal comune, eccetera, e è girata la voce che le istituzioni che partecipavano chiedevano ai partecipanti di non parlare degli armamenti. Sì, contro la guerra, ma non parliamo di armi, che nessuno s'azzardi a portare un cartellone, un volantino o un discorso contro gli armamenti o l'invio di soldati e armi. E questo appunto è il rischio di non esserci in questo momento e lasciare spazio a sta gentaglia che sventola la bandiera della pace quando in realtà non c'entra proprio un cazzo e sta andando nella direzione opposta. E niente, con questa rete, quindi molto eterogenea come ho descritto, invece si condividono dei punti e quindi è partito questo percorso e vediamo quanto ancora si può camminare insieme. Sono stati fatti appunto due grosse iniziative, una fuori dalla base NATO di Solbiatelona e poi un corteo in centro Varese. E invece il 13, giusto? Il 13 ci sarà questa assemblea sempre in zona della provincia varese, a Turbigo per l'esattezza, dove in realtà si vorrebbe pensarsi anche altro. Sicuramente un qualcosa che è mancato in tutti questi anni, dove siamo sempre andati sotto la base NATO e tutto, un qualcosa che andava oltre magari il presidio e il corteo. In un momento come questo, secondo me, si potrebbero sdoganare una serie di pratiche, come quelle che descritte anche da voi, dove comunque potrebbero partecipare anche chi si definisce pacifista, nel senso tagliare le reti o qualsiasi altra pratica di questo tipo non la vedo in contraddizione con chi si definisce pacifista o altro. Quindi l'idea appunto di riuscire a creare un qualcosa di un po' più dinamico anche da noi nella provincia di Varese e visto che è appunto un territorio vicino a Milano, l'invito è aperto, quindi un po' con quell'idea lì di riuscire a creare anche un percorso che si dia come obiettivo anche quello, che magari rimarranno delle cose che rimarranno sulla linea, sul livello del simbolico, però è quel simbolico che un po' di slancio può dare, al di là del fare sì il corteino, sì il presidio davanti alla base NATO. Quindi niente, forse abbiamo dei volantini dietro, poi chiedeteli. Grazie. Ok, no, va bene, no, io sono venuto perché ho sempre seguito, pur da qua, dal continente, diciamo, tutte le mobilitazioni dal 2014 più o meno in avanti che ci sono state, però appunto poi sentirle a viva voce fa sempre, poi è sempre utile, va bene. Però appunto poi qua sono delle cose importanti, interessanti, che anche l'iniziativa di cui parlava lui lì a Solbiato Lone, da queste parti, importante, va bene anche tagliare le reti, è un punto, è una prima, diciamo, ecco, è che coinvolga anche un po' di popolazione, che la capiscono, va bene anche quello, perché adesso, cioè, per come la vedo io, cioè, non è che come c'è la guerra fra stati, cioè fra potenze imperialiste, fra la NATO e per me pure quel bastardo lì della Federazione Russa, Putin, è una lotta, anche i cinesi, cioè, o gli indiani, sono tutte potenze, è una guerra interimperialista, non è, per quanto la vedo io. E comunque sia in Russia gli sfruttati, cioè l'unica guerra che devono fare è contro i propri stati, contro i propri padroni. In Russia la fanno contro e rischiano quel che rischiano. In Bielorussia i ferrovieri, alcuni hanno giustamente, sono riusciti a sabotare delle linee ferrate, cose. E noi dobbiamo fare nel nostro, noi abbiamo la NATO, abbiamo quello che abbiamo, l'Italia che è coinvolta completamente anche in questo scontro, per cui, cioè, però ecco, quello che capisce la popolazione è importante, però secondo me qualunque tipo d'azione andrebbe fatta, cioè non solo quella che capisce la popolazione, anche quella che la popolazione magari al momento non capisce, perché poi la popolazione chi è? È un casino, cioè anche popolazione a me non interessa, perché comunque c'è un'ottica di classe, cioè, anche lì i popoli, chi sono i popoli? I popoli, le nazioni, cioè, a me interessa gli sfruttati, cioè dal punto di vista di un internazionalista anarchico o anche non anarchico. Io sono anarchico, ma cioè, l'unica guerra che è legittima è quella contro i padroni, quella sì, è la guerra sociale, la guerra tendenzialmente, poi c'è chi la riesce a fare tagliando una rete, c'è chi la riesce a fare a vari livelli, però cioè, c'è anche chi magari come Alfredo ci ha tentato e ha sparato a uno nelle gambe, a un altro ha fatto qualcos'altro. Cioè i limiti non ci sono, anche perché visto la controparte, limiti non mi pare che se ne ponga assolutamente, quindi quel poco di azione che uno riesce a fare è sempre una goccia nel mare rispetto a quello che sarebbe necessario. Comunque avete fatto una buona iniziativa, anche se è lontana la Sardegna, per cui secondo me sarebbe buono, appunto, no, cioè lontano neanche troppo, però non c'è il treno, cioè non è che puoi andare gratis sulla nave, è un po' un casino. Sul treno ti danno la multa, non la paghi, in nave non ci arrivi proprio. Volevo un attimo ritornare sulla questione della pratica, delle pratiche appunto di invasione, no? Delle basi, anche perché appunto, come è stato fatto in un intervento precedente, no? È come magari anche inizialmente tentavo di accennare, no? Il fatto di avere uno sguardo su quelli, no? Che sono le pratiche poste, portate avanti in dei percorsi di lotta che hanno una loro specificità, no? Appunto come quello in Sardegna, e che poi hanno una valenza sia di, come dicevate voi, riappropriazione, no? Di un territorio che è appunto viene connotato poi, no, in una maniera totalmente differente sotto appunto un profilo prettamente militare, e come poi anche avere, non lo so, uno slancio, no, immaginativo, di proposta nel poterlo appunto riproporre in un contesto totalmente diverso, no? E farlo poi, cerco di spiegarmi bene, farlo entrare, no? In una pratica che possa essere poi condivisa, no? Da chi si oppone appunto ad una presenza militare su un territorio e che porta poi ad una critica e ad una lotta, ad una presenza, no? Militare in diversi territori. E quindi, come magari appunto come dicevate voi, anche questa qui è stata una pratica portata avanti in diversi anni di lotta, che ha una propria storia e che oggi, no, guardando a quello che è il ritorno, no, a una, diciamo, a una scintilla che si riaccende in un contesto attuale come quello del conflitto in corso, porta anche, no, ad una riflessione in avanti, ad altre pratiche, no, da poter condividere, come giustamente dicevate, nei confronti di tutte quelle industrie, come qui in Lombardia sono presenti, no, che forniscono armamenti o che producono determinati una strumentazione, no, per la guerra stessa, appunto. E quindi sicuramente questi qua rientrano all'interno, no, di uno scenario di quelli che possono essere, di quelli che sono, anzi, i responsabili, no, di un conflitto. E quindi sicuramente c'è un'individuazione, no, di chi si rende complice di questo conflitto qua, e d'altra parte quali potrebbero poi essere le proposte in un territorio come questo da poter portare avanti, no, per poter innanzitutto, secondo me, ribadire la propria posizione di fronte a questo conflitto qua. Sicuramente sono avvenuti dei presidi, no, di fronte a questa base NATO che è presente a Solbiate. Secondo me un passo prima, che deve essere fatto prima, è sulla narrazione e il posizionamento di fronte al conflitto in corso. E quindi anche, parlavamo appunto di fronte interno, se non sbaglio sicuramente uno dei maggiori responsabili e più visibili nei nostri territori vengono ricoperti sicuramente dalla presenza NATO, ma d'altra parte stiamo parlando di un conflitto, no, imperialista, e quindi un posizionamento chiaro io credo che debba essere più che lineare, e quindi partire anche da quella che potrebbe essere il discorso che come compagni e compagne portiamo di fronte a una lotta necessaria in questo momento. Poi d'altra parte, secondo me, sicuramente c'è un discorso anche di pratiche che possono andare oltre a dei presidi, dove appunto credo abbiano il ruolo di portare fuori, no, quello che è il proprio discorso di fronte a un conflitto. D'altra parte credo anche che un occhio di riguardo debba essere dato anche a quelle che poi saranno le ripercussioni materiali di un determinato conflitto in corso, che si poggiano sulla questione sicuramente economica, politica e sociale. Però, tornando un po', ecco, alla questione delle pratiche, mi chiedevo come poter, in un contesto come questo, poter sdoganare o comunque snocciolare, no, un po' questa pratica qua. Non è proprio una domanda, però è una riflessione nel poter riproporre qualcosa di valido in un altro territorio. Sì, ti rispondo. Secondo me la questione appunto della pratica, è vero che è tutto il discorso riguardo la riappropriazione della terra, è vero che, diciamo, in Sardegna è molto, molto forte proprio per il discorso indipendentista e quant'altro, però comunque ricordiamoci che quella che siano le basi militari o qualsiasi tipo di espressione militare presente in un territorio non sono presenze decise da chi i territori li abita, ma sono in generale decise dall'oppressione statale che banalmente mette lì una base. base, metti lì una caserma, metti lì quel che è, comunque anche a chi abita un territorio dove una lotta indipendentista non è presente, sta, diciamo, questo territorio gli viene sottratto, da questo punto di vista secondo me il discorso della riappropriazione della terra è comunque valido, come va di pari passo appunto sul piano dell'attacco alla presenza statale o militare o che sia, appunto nel territorio. Quindi secondo me questi due discorsi vanno di pari passo anche al di fuori della Sardegna e sono delle rivendicazioni che dovremmo, insomma, portare avanti tutti quanti anche appunto nella pratica. Secondo me questo discorso è molto interessante, dopodiché anch'io vengo dalla provincia di Varese e ho seguito, diciamo, tutto quello che possono essere delle lotte antimilitariste nel territorio, però ci sono delle grosse differenze a livello di percezione anche di legame col territorio da parte delle persone e anche di minore tangibilità proprio della presenza militare nel territorio da parte di chi lo vive, perché intanto non si tratta per esempio di basi come quelle in Sardegna in cui avvengono delle esercitazioni militari, per esempio, e questa non è una cosa da poco, perché la base di Solbiate, pur essendo una base molto, molto importante, è una base che tutto sommato è perfettamente integrata all'interno del contesto urbano, che è un contesto di periferia vicino delle autostrade. Se non sai che quella è una base, quasi non ti accorgi della presenza della base, non la si vede. E questa cosa non è una cosa da poco, perché a livello di poi tentativi di allargamento della lotta contro la base, insomma, non è così facile, perché certo questi movimenti contro, cioè, antimilitaristi in provincia eccetera, sono anche partecipati, direi eterogeneo e poco, perché veramente ci sono dai cattolici agli anarchici dentro, sono delle situazioni anche contraddittorie, un po' paradossali, però il passo diciamo di allargamento è sempre un po' difficile, perché passare dalle associazioni che sono sensibili a quel tema, che si organizzano e fanno l'evento contro la base, al tirare in mezzo la popolazione che vive quei territori, non è semplice. Per cui, per dire, sicuramente il taglio delle reti come pratica può essere interessante comunque, ed è anche una cosa facilmente attuabile, se ci penso. Dopodiché, non so, ci sono altre cose che l'apparato militare fa nei territori che passano più in sordina. Per esempio, c'è una grande presenza del racconto del militare all'interno delle scuole. Cioè, la base NATO insieme alle istituzioni locali entrano nelle scuole, portano il generale di sto cazzo a parlare con i bambini, a spiegargli che fare i militari è figo. E queste cose qua, a meno che non gli stai addosso, non ti segui, queste cose passano in sordina, però succedono. Sono delle cose che a lungo andare comunque creano una percezione dell'integrazione della base all'interno del territorio abbastanza forte. E comunque anche una percezione di quella roba lì non come una cosa così cattiva, quindi diciamo anche lavorare su queste cose qua potrebbe essere interessante. Certo, richiede degli sforzi, richiede dello starci dietro, però è una roba su cui per esempio avevamo riflettuto tempo fa. Un'altra cosa che è vero, come diceva Michael prima, la provincia di Varese, non solo, anche il confine col Piemonte, la provincia di Milano, così, è costellata di fabbriche di morte, che però non sono basi militari. E anche qui la percezione della fabbrica in un territorio che è altamente industrializzato, in cui tanta gente ci campa su quella roba lì, è più difficile da intaccare rispetto ad altro. E la percezione del disturbo della Augusta che fa le prove degli elicotteri in quel contesto lì geografico, in cui in realtà a chi vive lì non gli danno fastidio gli elicotteri dell'Augusta, ma gli danno fastidio i 300 aerei di linea di Malpensa che sta a pochi chilometri, è anche quella una questione, nel senso che il primo pensiero non è sì la Augusta, ma è cazzo l'aeroporto di Malpensa. Per cui è complesso sto discorso qua, poi sicuramente cioè, sono delle pratiche interessanti, anche facilmente riproducibili, cioè non si sta parlando di chissà che cosa. Però anche i territori hanno delle complessità che insomma vanno considerate, e non è detto che quello poi sia, nel senso magari a quello ci arrivi e per renderlo una cosa che diventa replicabile con... diciamo anche in modo interessante, perché replicabile non da te che sei un gruppetto di compagni, ma dal tipo che ci abita lì, non so, ci sono insomma, vari elementi da considerare. Volevo aggiungere una cosa al volo, che infatti collegandomi all'intervento a quest'ultimo intervento e riprendendo un po' uno degli interventi che c'è stato prima, credo che, vabbè, poi sicuramente voi lo saprete meglio di me, però il contesto sardo è un contesto molto particolare, soprattutto dove la questione della presenza militare è indissolubilmente legata a una questione colonialista che noi non possiamo comprendere, per cui insomma anche prima è stato detto cos'è il popolo, a me interessa la lotta di classe, va bene, dopodiché all'interno di dinamiche coloniali sicuramente ok, insomma, la Sardegna non è il Niger, però sicuramente ci sono state nei decenni di dominazione italiana delle dinamiche che fanno sì che ovviamente sia, no, anche più difficile intravedere insomma dove inizia l'una e dove comincia l'altra, e questo era anche un po', secondo me, per collegarmi insomma all'intervento che c'è stato prima. Volevo aggiungere una cosa che cioè, non c'entra niente con quest'ultimo punto, si collega un po' a quello che diceva la compagna prima, che una riflessione che secondo me è mancata un po' questa sera, che credo sia importante, è che io credo che dobbiamo cominciare anche nei discorsi che facciamo sulla questione della guerra adesso, cioè sulla questione della crisi in Ucraina, secondo me dovremmo cominciare un pochettino ad astrarci rispetto a quello che da ciò che avviene lì, non perché non interessi, insomma, non perché non interessi il destino della popolazione ucraina, ma perché secondo me adesso siamo passati a un altro quadro di implicazioni, e anche rispetto a quello che noi possiamo fare, secondo me l'importanza di opporci per esempio alle basi della NATO o comunque alla presenza della NATO qui, non credo che sia ascrivibile solo al fatto, come giustamente è stato detto, che ognuno deve insomma combattere lo Stato, quello che insomma il proprio Stato, il proprio esercito, che sicuramente è un assunto vero, ma secondo me bisogna anche analizzare la fase in cui siamo, e io credo che tutto sommato siamo in un momento in cui si vedono tangibili i segni comunque di cedimento di un ordine mondiale a guida statunitense. Questa cosa, ci sono vari segnali insomma dalla ritirata in Afghanistan e anche dalla reazione che c'è stata da tutti gli altri paesi al conflitto ucraino, nel senso che a differenza di altri episodi come poteva essere post 2001 non c'è stata una levata di scudi al di là della Cina, che era prevedibile che non si sarebbe schierata, però anche altri paesi del Sud America non hanno assolutamente detto niente, fanno orecchie da mercanti, l'India men che meno, per cui è evidente che c'è un incrinarsi, no, di un dominio di un certo tipo, però io sono convinto che quelli disposti a fare una guerra nucleare per non cedere di un millimetro delle proprie posizioni all'interno del dominio geopolitico mondiale sono proprio gli statunitensi, perché insomma è una questione di sopravvivenza, come era una questione di sopravvivenza per la Russia di Putin non far entrare l'Ucraina all'interno del patto atlantico, così è una questione di sopravvivenza ovviamente per le logiche insomma capitaliste che a noi non appartengono, però cercare di mantenere intatto questo dominio, per cui secondo me è doppiamente importante, ovviamente sia perché noi siamo all'interno di territori cui stati, i cui eserciti, scusate, sono all'interno del patto atlantico, ma anche perché secondo me dobbiamo renderci conto che stiamo entrando in questo periodo di convulsione del appunto imperiale americana, e sicuramente questi sono la storia ci insegna, anche vedendo insomma le precedenti ere geopolitiche, che questi sono sicuramente i momenti più critici, i momenti in cui effettivamente qualcosa di grosso si può scatenare. Il problema è che è la prima volta nella storia che parliamo di scenari di questo tipo con un potenziale arsenale nucleare che appunto appunto non ha insomma precedenti. Boh, questa era semplicemente un'osservazione per completare quelle che sono state fatte prima. Sì, vorrei aggiungere un paio di cose. Intanto vabbè, sono consapevole che effettivamente insomma, il territorio sardo sia un pochettino particolare, però è anche vero che anche noi abbiamo le nostre difficoltà. Banalmente in alcuni territori dove sono presenti le basi è difficile anche qui parlare un pochettino con gli abitanti del posto e così via, perché ad esempio vicino alle basi tanti allevatori e così via ricevono degli indennizi perché non possono mettere in atto insomma praticare il loro lavoro. Quindi sicuramente trovare un compromesso e riuscire comunque a portare avanti la lotta è complicato, però io penso che allo stesso tempo cioè, sia un pochettino questo il momento, un momento molto fertile per riuscire, non dico ad abbandonare questi discorsi, però a renderci conto che per forza bisogna oltrepassarli, per forza comunque ci siano degli aspetti che sono consapevole che non verranno mai accolti, però insomma ci stiamo trovando effettivamente in un momento molto particolare e non penso che si possa continuare insomma un po' a pensare a chi non è d'accordo con noi, però ecco, fare qualcosa. Tra l'altro invece collegandomi un po' a quello che si diceva nell'ultimo intervento, secondo me appunto non dovremmo solamente diciamo fare delle analisi su quello che sta succedendo in Ucraina e così via, per renderci conto che delle conseguenze tra l'altro pratiche ed evidenti sono qui anche in questo momento, e tra l'altro non aspettarci che magari delle conseguenze siano solamente di un possibile scenario di attacco e così via, però secondo me le conseguenze che noi subiremo e che stiamo subendo sono più silenziose, sono meno evidenti, però insomma andranno avanti sempre di più. Ad esempio un pensiero che mi sto facendo io spesso è che secondo me una cosa che accadrà è banalmente un aumento dei posti disponibili per coloro che si arruolano volontariamente, e questo appunto succederà in maniera molto più silenziosa, succederà con una maggiore presenza dell'apparato militare all'interno delle scuole, all'interno delle giornate tipo di orientamento per l'università, e anche questi sono sicuramente degli scenari a cui dobbiamo guardare e da cui dobbiamo anche guardarci le spalle, e anche concordo insomma con te nel dire che siano degli aspetti della quotidianità a cui dobbiamo tener conto, e questo si ricollega anche un pochettino al discorso che facevo prima sulla consapevolezza che le basi militari o l'attacco alle basi militari, il taglio delle reti eccetera non sono tutto, non devono essere tutto, ed è necessario guardare a 360 gradi appunto a quello che è il momento e a quello che sta succedendo insomma. Io dico solo una roba riguardo a quello che si diceva prima rispetto ad Alfredo. Tra martedì e mercoledì si saprà un po' di più, perché l'avvocato Flavio andrà lì. Quello che è arrivato è giunta è una telefonata di Juan, quindi ancora non si capisce bene. Un po' di compagni e compagne che si stanno seguendo da vicino l'operazione Skiptamanent, che tra l'altro ricordiamo il 25 maggio ci sarà la Cassazione a Roma, e quindi tendenzialmente questa operazione in teoria lo Stato nei confronti del compagno anarchico Alfredo doveva farla postuma nel momento in cui andava definitivo. Comunque insomma tra martedì e mercoledì si sapranno maggiori aggiornamenti, solo questo. Va bene, se non ci sono più interventi o domande, noi ringraziamo le compagne, grazie per essere venute. Adesso ci sarà una cena a base di fregola con vongole e bottarga. Il benefit sarà appunto per il corteo del 22 maggio a Teulada. Grazie a tutti e a tutte.